c'est pour sa main. Intanto il Vaticano se la balla su sto beat. Fai soldi con i cori della chiesa come un hit. E il momento sul palco con la tunica. Se non compri il disco ti fanno la scomunica. Ratzinger finalmente ha convinto di sfrattare tutte le anime dal limbo. Che esista un dio, io non lo nego. Ma quando rappo son divino, sì perché bevo. Dicono che basta la ricchezza nell'anima. Allora date ricchezza materiale all'Africa. E nei discorsi quanti vi annoiate? Se ci andate contro rispondo con le crociate. Lo sai che paga le famiglie per farli stare zitti. Quando ci sono di mezzo i preti pervertiti. L'elemosina posa, non la dona per comprarti la macchina e la tunica nuova. Di che posso fare se è peccato? Se mi tocco è peccato, se trombo è peccato, se desidero è peccato, respiro è peccato. E allora cazzo è meglio non essere mai nato. Se assolvi i miei peccati muovendo le tue dita, facendo il segno della croce ma della moneta. Gioielli sull'indice e la mano pulita, la stessa che usano per dire Satana retra.